in questi anni la scuola italiana sta registrando una presenza sempre più consistente e massiccia di alunni provenienti da altri paesi, in particolare da paesi extracomunitari. Siamo partiti tardi rispetto ad altri paesi, l'Inghilterra, la Francia, che hanno altra tradizione rispetto all'Italia, ma stiamo arrivando molto rapidamente ad una percentuale di inserimento nelle nostre classi pari agli altri paesi. Rilevo i seguenti fatti. Il primo, c'è una questione molto consistente di centinaia e centinaia di minori in età scolare che sfuggono alla scuola italiana perché figli di genitori che non hanno il permesso di soggiorno. Questo rimanda ad uno dei tanti gravi limiti inaccettabili della legge Bossi-Fini. Secondo, progressivamente in questi anni sono diminuiti le risorse e i finanziamenti da parte del Ministero alle scuole che hanno ragazzi provenienti da altri paesi. Questo elemento diventa ancora più consistente, questo dato, perché si somma la contemporanea riduzione di fondi trasferiti dallo Stato agli enti locali. I due elementi evidentemente si implementano. Per esempio, noi abbiamo una riduzione secca di mediatori o facilitatori linguistici. Mi riferisco in particolare a quelle figure che per le ragazze e i ragazzi di primo inserimento che non conoscono la lingua italiana sono la condizione senza la quale non c'è un inserimento credibile nelle nostre scuole. Quindi siamo in una situazione difficoltosa, tant'è che balza sempre più agli occhi il fatto che il contratto di lavoro del personale della scuola destina uno dei pochi contratti di lavoro a farlo, risorse specifiche per le scuole che hanno una percentuale consistente di alunni extracomunitari inseriti. Quindi c'è un problema di risorse, un problema di formazione del personale, perché siamo in situazioni nelle quali l'italiano diventa seconda lingua, e quindi implica un elemento di formazione personale da fare con molta attenzione, in modo molto diffuso e qualificato. Ultima questione, si è aperta in questi giorni, anche se con toni prevalentemente giornalistici, la partita quote. Devo dire che dal mio punto di vista le quote nelle classi è uno strumento sbagliato. Bisogna lavorare, parlando con i genitori, con gli enti locali, eccetera, per fare sì che in modo condiviso non si vada ad una eccessiva integrazione di alunni extracomunitari tutti nella stessa classe, onde evitare anche impropriamente elementi di ghettizzazione. Però l'uno aspetto e l'altro, cioè la programmazione, la quantità di alunni accolti in una classe, eccetera, sono questioni che vanno viste su base territoriale, cioè, l'obiettivo è l'integrazione piena. Questa deve essere perseguita con un coinvolgimento pieno, oltre che degli enti locali, anche delle famiglie e delle comunità, per scegliere la soluzione migliore. La cosa inaccettabile è che si vada ad una consistente riduzione, consistente e costante, dei fondi per l'inserimento degli alunni e degli adulti extracomunitari. Quindi, tracciato questo bilancio, possiamo dire che la riforma Moratti non contiene allora degli elementi che possono dare una svolta in questo senso, almeno a quanto sembra capire dalla sua applicazione dopo un anno? Guardi, la legge Moratti è una legge, italiocentrica, e quindi da questo punto di vista, nelle indicazioni, cioè nei programmi di insegnamento, per usare un termine più desueto ma più noto, così come in altri passaggi, è sostanzialmente una legge che fa riferimento alla globalizzazione, all'integrazione, agli extracomunitari, più come incisi o richiami di stile che come scelte di merito. Quindi la legge Moratti da questo punto di vista non ci consente di fare passi in avanti, anzi è europocentrica, è italianocentrica, si guardi ad esempio i programmi di insegnamento della storia con delle cesure assolutamente incomprensibili. Ma ciò che conta di più della legge Moratti sono le scelte concrete dal punto di vista finanziario. queste di fatto diventano una legge nella legge e le scelte concrete ci dicono siamo in presenza di una costante e progressiva riduzione di fondi. Senza risorse e senza qualità non si fa una buona integrazione, cosa che invece vogliamo non solo si faccia, ma che sia consentito alle scuole di fare i conti con la qualità dell'integrazione. Senta, un'ultima domanda sulla questione della laicità della scuola italiana, visto che in Francia anche la polemica diciamo, è molto forte. Secondo lei stiamo arrivando anche in Italia al momento in cui si dovrà decidere velo sì, velo no, crocifisso sì, crocifisso no, insomma? Guardi, un mondo che sta diventando sempre più multicolore nelle classi, nelle vie, nelle città, pone problemi fino ad ora inediti. Però l'Italia un qualche strumento ce l'ha. La Corte Costituzionale ha ribadito più volte che la natura della nostra scuola è scuola pubblica, è una natura laica. Quindi io ritengo che nella scuola non ci debbano essere segni che caratterizzano una religione rispetto ad altre, perché i luoghi di culto o i luoghi di frequenza delle persone che giustamente ritengono, come dire, di praticare una fede, un credo religioso, sono altre. Da questo punto di vista, questo rappresenterebbe, a mio avviso, un segnale di attenzione molto forte. Peraltro, al di là delle polemiche sollevate da una prima sentenza provvisoria di sospensiva di un pretore abruzzese, vorrei ricordare che la nostra Corte di Cassazione alcuni anni fa, nell'accogliere il ricorso di uno scrutatore che lamentava il fatto di esercitare il suo affidamento in un luogo dove erano ospitati segni del culto cattolico, il crocifisso eccetera, diede ragione a questa persona. Quindi al di là del clamore già c'è un orientamento della nostra giurisprudenza consolidato. Si tratta in termini diciamo di accoglienza per tutti e di grande serenità di dare seguito a questi fatti sapendo che dobbiamo fare i conti con valori e con scelte che devono consentire a tutte le persone di potersi riconoscere. Questo non significa essere più poveri, a mio avviso significa essere più ricchi e più attenti a se stessi e all'altro contemporaneamente.